Andiamo. Allora, partiamo da questa osservazione. La semiotica o semiologia, i nomi con cui si indica sono due in genere diversi, in genere quelli di scuola francese usano il termine semiotica, quelli di scuola inglese usano semiologia, semiotique in francese e semiologia. La semiologia nasce verso, insomma, tra gli anni 20 e 30 del secolo scorso e nasce sull'onda di un libro, e questo spiega l'equivoco, insomma, in qualche modo, l'equivoco o la difficoltà che c'è nel capire, che è il Cours de linguistique générale di Fernand de Saussure. Corso di linguistica generale. Saussure era un linguista ginevrino che non ha mai scritto, questo libro non l'ha scritto lui, questo libro sono, quello potrebbero fare anche alcuni miei allievi se volessero, mettono insieme diversi appunti dei corsi di vari anni, cuciono un po' e questi qui sono i corsi di 3 o 4 anni di due allievi particolarmente bravi di questo Saussure, il quale ha scritto delle cose, ma delle cose che non c'entrano quasi nulla con questo. Ma questo è un testo rivoluzionario che è uscito, se non vado errato, nel 1921 per la prima volta, ma i corsi erano stati fatti circa 10 anni prima, esce quando Saussure era morto, nel 22 è uscito a Parigi. Però i corsi sono del 1907, 8, 9, 10, 11. E rappresentano un rivoluzionamento della linguistica dell'epoca, sono diventati la base di quella che si è chiamata appunto dopo Saussure linguistica strutturale o strutturalista. È qui che Saussure per la prima volta tenta di collegare il linguaggio, cioè dice che il linguaggio è un sistema di segni e tenta di costruire una teoria generale dei sistemi di segni. Però la costruisce, lui era un linguista, quindi la costruisce a partire dal linguaggio, lui quello che tiene fermo, solido, comunque, è la struttura, certamente semiotica, ma la struttura del linguaggio. Quindi ogni tentativo di generalizzazione che si può fare sui sistemi di segni finisce per risentire, per essere influenzato da quelle che sono le caratteristiche specifiche del linguaggio rispetto ad altri possibili sistemi di segni. In modo particolare rispetto, per esempio, a sistemi di segni che non siano segni acustici come quelli del linguaggio, per esempio, ma segni, diciamo, grafici, quindi il mondo delle immagini. In realtà bisogna dire, ma questo non ho tempo, quindi non mi fermerò poco, che in realtà prima di Saussure, qualche decennio prima, c'era stato un altro che è considerato più o meno il cofondatore, che non c'entrano nulla però, della semiologia o della semiotica, che è un filosofo americano. Chiamato Charles Peirce. Che negli anni intorno al 1870-1880, quindi un paio di decenni prima di Saussure, tenta in modo non così agganciato, al nel linguaggio, un'altra teoria dei segni, che non a caso è quella prediletta da quelli che vogliono costruire temi di semiotica o di semiologia della pittura, perché solo sui re è difficilissimo usarlo da quel punto di vista. Ora, perché Saussure parla, perché Saussure è interessato alla, come dire, all'aspetto segnico del linguaggio? Poi cerchiamo di capire in che senso il linguaggio è fatto di segni. Beh, è una cosa che oggi probabilmente è, insomma, banale, ma ai tempi di Saussure lo era meno, e comunque è utile rifletterci ancora adesso, perché per quanto sia scesa nel senso comune, non è così, così semplice come può sembrare a prima vista la cosa. Un segno è qualcosa che si dice, secondo un classico, dei segni parlavano già i filosofi e i logici medievali, non è una cosa completamente nuova. Nell'antichità, nella filosofia classica, i primi filosofi che hanno tentato una teoria dei segni sono gli stoici, i filosofi stoici, quindi quella generazione di filosofi post-platonici o anche post-aristotelici, ma insomma alcuni erano addirittura coetanei o coevi di Aristotele. Aristotele e Platone non sono separati da un po' meno di una generazione. Poi i logici medievali, insomma, poi, quindi l'idea che ci fosse, e cosa era un segno? In latino, il termine latino è signum, da cui poi deriva il termine segno in quasi tutte le lingue neolatine, sign in inglese, sign in francese. Detto Zeich, quindi è diverso, in italiano è segno, in spagnolo anche sì. Mentre in greco è stemmeios. Infatti una semiotica c'è da prima che l'abbiano fondata i successori di Saussure, cioè, però viene chiamata in maniera un po' diversa, viene chiamata semiotica, per lei in più, che deriva dalla epsilon greca, o dalla eta, ed è un pezzo della medicina. La semiotica è lo studio dei sintomi, cioè i segni dai quali il medico, i segni corporei sul corpo del malato, quando un essere umano è affetto da una malattia, esibisce alcuni segni, che sono i classici sintomi della. Il colore degli occhi, l'arrossamento degli occhi, l'arrossamento della pelle, il tremito della mano, sono tante cose che il medico acuto dice: ah, guarda, dice, ah, questo è segno che c'è questa malattia, che c'è questa alterazione interna del corpo del malato. L'esempio più classico che si fa nei manuali di semiotica per illustrare il concetto di segno, a partire dal classico trattato di semiotica di Umberto Eco, uscito nel lontano 1975, che per la traduzione di studi italiani, quello più importante, è l'esempio del fumo. Io cammino per la strada o cammino, diciamo, in campagna, per me io sono in campagna, io punto alzo gli occhi, vedo di lontano un filo di fumo che si alza. Posso fare, non faccio neanche un ragionamento, istantaneamente posso dire che in quel posto lontano dove vedo il fumo c'è il fuoco. Quindi il fumo è un segno del fuoco. Quindi una definizione generalissima di segno è che il segno è qualcosa che sta per qualcos'altro, che sta al posto di qualcos'altro. Magari uno può aggiungere sotto certi punti di vista, da un certo punto di vista. Il fumo non sostituisce il fuoco in toto. Sostituisce il fuoco nel senso che è, siccome io so che è un fenomeno, con la mia esperienza, che è associato, se non nella totalità, la gran parte delle volte, che qualche cosa brucia, produce del fumo, e il fumo, siccome si alza in alto, si vede lontano, anche magari da un punto da cui il fuoco non si può vedere, però vedo il fumo, e quindi io, quando c'è del fumo, deduco, concludo, posso essere ragionalmente sicuro che ci sia del fumo. Quindi il segno, un segno è qualcosa che sta per qualcos'altro sotto qualche rispetto, sotto qualche punto di vista. Sta per qualcos'altro da un certo punto di vista, sotto qualche rispetto. Questa è la traduzione quasi letterale latina di un motto latino che si trova, se non ricordo bene, se mi fatto madre o qualche altro filosofo medievale. Signum est aliquis pro aliquo. Aliquis pro aliquo è qualcosa che sta al posto di, che sta per qualcun altro. Ora, detta in questi termini, è evidente che da questa definizione di segno io posso dire che moltissime cose sono segno di altre e che in qualche maniera con i sistemi di segni hanno a che vedere non solo l'uomo, ma anche quasi tutte le specie animali. Se voi vi avvicinate di soppiatto a qualunque mammifero selvatico, cioè non addomesticato, riuscite a non farvi vedere, siete sotto vento, siete sopra vento, e quindi lui non sente il vostro odore, eccetera, e quindi non vi potete vedere, a questo punto battete le mani, improvvisamente vedrete il coniglietto, la lepre, il cerbiatto, il porcellino d'India, qualsiasi, che vi attappa, che cosa è successo? Lui non vede nulla, voi siete di spalle, sente un rumore, il rumore per lui è un segno, è qualcosa che sta per qualcos'altro, non sa bene neanche per cosa sta, ma in genere sta per situazione pericolosa, quindi piglio e scappo, no? Quindi noi esseri umani non siamo gli unici a, come dire, avere diciamo, l'esclusiva, non abbiamo l'esclusiva dell'utilizzo dei segni, però certamente i nostri sistemi di segni sono molto più complicati e sono tipici degli esseri umani. Da che punto di vista le immagini che noi produciamo o utilizzando strumenti in grado di lasciare delle tracce su certe superfici, carbone, pezzi di carbone bruciato, macchietti di peli animali intinti in liquidi particolari e passati su una superficie, possiamo fare creiamo dei disegni e delle immagini in questo modo. Nella facilità abbiamo matite, penne, eccetera, pennelli e altre cose di quel genere, oppure macchine fotografiche, quelle sono tutte immagini. Se andate a vedere le pitture rupestri, una delle famose pitture rupestri, quella della caccia al bisonte nella grotta di Altamira, il bisonte disegnato sulla parete della grotta di Altamira, probabilmente con un carboncino, un pezzo di carbone con un pizzone di legno, insomma, carbonizzato, quella immagine è qualcosa che sta per, è il segno di un bisonte vero, di qualche bisonte che il cacciatore aveva visto nei giorni precedenti, oppure che non aveva visto, era l'astrazione, c'era, era ciò che quello che ha dipinto, quello che ha disegnato, che ha fatto, che ha composto quella scena sulla parete della, della grotta di Altamira, era la situazione che, diciamo, era una, l'astrazione, l'idea, il concetto di bisonte che lui aveva in testa, e più o meno potrebbe essere un insieme di. Quindi quello è, quel segno lì, quel bisonte di Altamira è un segno, nel senso che sta per o un singolo bisonte che il pittore aveva visto, o per una categoria di esseri che si è formata nella mente del pittore, chiamati bisonti, e che hanno tutti alcune caratteristiche comuni più o meno riassunte in quella figura che lui fa, ok? Adesso io pronuncio la parola italiana seggiola. È un segno, seggiola. Sì. Da per qualcosa? Ah. Sotto qualche rispetto? No. Certo. Perché sei perplesso? Io ti dico, mi prendi con la seggiola per cortesia. Tu cosa fai se sei una persona gentile? Sì. Mi vuoi far vedere che cosa, che cosa ti intendi? No, moscalo, stai lì seduto, moscalo, indicalo. Anche tu sì, bravo, me l'hai indicato adesso, no? Io ti ho detto, prendimi quella seggiola per cortesia, e tu hai preso quella seggiola senza che io avessi dovuto indicartela, vero? Perché hai capito che io volevo esattamente quell'oggetto lì, o uno come quello? Perché a quell'oggetto attribuisco la parola seggiola. Ma, quindi l'insieme dei la sequenza di suoni che concatenati dà luogo alla parola seggiola, un suono S, un suono E, un suono G rafforzato, un suono O, un suono L, un suono A, tutto insieme, no, ma anche tutto insieme. Quella sequenza di suoni è qualcosa che per me e per te, per me e per te, se qua dentro ci fosse un abitante del Nepal, probabilmente l'insieme di suoni seggiola per lui non indica quell'oggetto, ma per me e per te, che siamo stati allevati, cresciuti, vissuti in una comunità di parlanti, in una lingua particolare detta italiano, l'insieme di suoni seggiola sta per, indica, sta al posto di un oggetto qualunque, che è qualunque, di un oggetto particolare che io e te, dopo poco tempo, dopo aver passato un anno e mezzo, due anni di vita, in questo modo siamo in grado di riconoscere, e quindi di fare, addirittura poi le parole prendi per favore sono anch'esse segni di qualche cosa, perché tu hai fatto un'azione, dopo io ti ho chiesto, per favore mi prendi quella seggiola, tu ti alzi, la prendi, se sei gentile con te, se me la porti o me la porti. Quindi non solo tu sai che il suono, che l'insieme di suoni seggiola corrisponde al terzo oggetto, ma sai anche che l'insieme di suoni prendi corrisponde ad una azione che io ti chiedo di fare. Quindi sai che prendi è diverso da prendere, è molto complicato, però tu sai che prend è qualcosa che ha a che fare con un'azione che vuol dire prendere una, eccetera. Ho aggiunto per favore, quindi capisci anche che non ti ho dato nessun ordine, te l'ho chiesto in maniera amichevole, visto che tu sei lì vicino, io sono qua, se lo fai. Quella serie di termini, quindi ogni parola, ogni sequenza di suoni che tu hai riconosciuto come singole parole della mia produzione verbale di quella frase, significa qualcosa per te, no? Sta per qualche altra cosa. I suoni seggiola stanno per un certo oggetto, i suoni prendi per favore stanno per un'azione, i suoni quella stanno per indicare all'interno di tutte queste seggiole che ci sono qua è, se io ti dico prendi quella seggiola, in realtà l'esempio è scelto male, perché se io ti dico prendi quella seggiola, quindi tu non prendi niente, e mi fai una domanda. Quale? Quale? Ecco. Ma se io ti dico mi prendi quella seggiola per favore, se non sei totalmente daltonico, capisci, o se io non so, aspetto da vedere un treno, per cui le indico tre insieme, se io dico la seggiola per favore, il quella associato con questo gesto, ma ho sempre avuto di quella, se io dico mi prendi quella seggiola per favore, e che cazzo, cioè tu dici, oh, questo dove vuole andare, quale vuole, quale, quindi direi quale. Allora vedi che già da questo esempio semplicissimo capiamo che, però, quindi è corretto dire che il linguaggio è un sistema di segni, no? È corretto, quindi sono un segno, però se potete un attimo capite anche che il modo in cui le parole sono segni di oggetti o di azioni o di concetti è diverso, è un modo diverso, è una corrispondenza diversa tra parole e oggetti, quella individuata, quella messa in opera come parole, da quella messa in opera con l'immagine. È vero, il bisonte, il bue, il bisonte disegnato sulla grotta di Altamira è il segno di uno o più bisonti reali, la parola seggiola è il segno di uno o più oggetti, diciamo reali, uno o più seggiole reali, ma è diverso il modo in cui seggiola è il segno di quell'oggetto, il modo in cui il bisonte disegnato è. Qual è la cosa? Qual è la differenza più basilare che c'è tra il carattere di segno della parola e il carattere di segno dell'immagine? Se riflettete un attimo anche solo ai due esempi che ho fatto, cioè il rapporto tra il suono i suoni seggiola e quella cosa. Io sto usando un esempio che tutti avete in mente, tutti avete visualizzato il bisonte sulla. No? Non l'avete mai visto, no, perché la roba che dico io perché. Vabbè, insomma, chi non usava presente, immagini il profilo di un bisonte fatto veramente molto, con pochi tratti ma molto abbastanza realistico, visto un po' di tre quarti dal davanti, quindi con una certa prospettiva quasi, con le due zampe davanti, che una sola zampa dietro si vede, però forse l'altra se n'è andata così, un paio di corna che si dice che è un bisonte, qualche segnetto nero che indica il pelo sopra, per il resto sono pochi tratti, si vede il profilo quasi solo di questo bisonte, quale forma sua. Però il modo in cui è messa eccetera dà già anche una qualche tridimensionalità, questo è il disegno che si trova all'interno di una grotta nel nord della Spagna, che è una delle più antiche pitture, insomma, uno dei più antichi, delle antiche produzioni di immagini artificiali dell'uomo, risalente grosso modo ai 30-40.000 anni fa, quindi molto tempo. Ma se non vi va bene quello, pensate a un qualunque disegno di un bisonte della cosa. Però uso quello di Altamira proprio perché è più simile a un disegno contemporaneo, fatto con una matita o con un bastoncino. Allora, ragioniamo sui due esempi. Come fate a dire che il disegno di un bisonte è il segno di un bisonte vero? Che cosa vi convince? Che cosa? Voi vedete di fronte su un libro, oppure andate nella cosa sulla rotta non grande superiore da chiusa al pubblico 30 o 25 secoli fa, perché i visitatori alteravano il microclima, quindi si rovinava la cosa, quindi adesso non si vede più, però è pieno di riproduzioni sui libri. Qualunque libro di storia dell'arte già all'inizio queste cose. Allora voi vedete lì, questo è il segno del bisogno. La disposizione questo dei segni. La disposizione? Dei segni che compongono. Ah, bravo. I segni che compongono. Ma sotto. Io sono un po' scarsino, eh? No, perché. Sono un po' scarsino il disegno, ma supponi che non ridete, è partito, ecco. Dove sono i segni? Aspetta, no, non c'è, ce n'è uno solo. È possibile tracciare il profilo di un oggetto senza mai staccare il gesso, la lavagna o la matita? Quello lì sembra più un agnellino che un bisonte. Mentre io ho detto usiamo sedia e va bene, sedia è un po' più che in sedia siete in grado di riconoscere i suoni che messi insieme compongono la parola sedia? Credo che sia immensa. S E D I A. Metto due barre intorno a ognuno. La parola sedia è inequivocabilmente composta in italiano da cinque suoni. Due suoni consonantici, S e D, e tre suoni vocalici, E, I, A. Diciamolo in inglese. La parola inglese chair è inequivocabilmente composta dai due suoni consonantici, C e A, finali, da un suono vocalico definito A e da un suono un po' meno definito ma sempre vocalico brevissimo. E c'è, c'è una I anche se diverso, può essere il dubbio che i suoni siano tre o siano quattro, ma anche in inglese le parole sono relativamente facili da segmentare, sono fatti di pezzetti, di mattoncini, Un'immagine posso io dividerla, certo, posso dire, ah, vabbè, guarda, fin qua ci sono le zampe, da qua a qua sono le zampe, ah, queste le isolo, sono le corna, questa è la testa, ma sono io che, come dire, e se io e te facciamo una analisi di quel tratto lì possiamo anche divergere, tu puoi dire no, io per me lo vedo lì, la cosa comincia prima o dopo, mentre dopo un po', che se un minimo sappiamo la lingua, diciamo io e te non possiamo essere in disaccordo sui suoni che compongono la parola sedia, giusto? Siccome parliamo in cambio in italiano saremo tutti d'accordo che... Diciamo, intuiamo che c'è una differenza tra il modo in cui un'immagine è segno di qualche cosa e il modo in cui una parola è segno di qualche cosa? Sì, secondo me perché comunque l'alfabeto è un linguaggio per pigliare così una cosa. Ti fermo subito. Io sto usando le lettere scritte per comodità perché così almeno voi vedete, però cerchiamo di dimenticarci che la scrittura esista, non esiste la scrittura parola viene dopo. Il linguaggio è qualcosa di parlato, l'alfabeto è un sistema di scrittura, non ha niente a che fare con il linguaggio, è un sistema di riproduzione del linguaggio. Il linguaggio, prendiamo il linguaggio parlato, il linguaggio è parola parlata, poi il modo in cui lo scrivo, per fare prima scrivo quei simboli lì, ma hai capito perché gli ho messo le due cose vicino? Questo è il simbolo del suono S. Questo è il simbolo del suono E. Sì, vabbè, una rappresentazione della rappresentazione. Sono suoni, quindi l'alfabeto non c'entra. Dopo poi ne possiamo parlare, ma lasciamo perdere la scrittura. Quello che noi stiamo dicendo adesso vale anche per popoli che non scrivono, che ce n'è ancora, ce n'erano più, ancora di più, ci sono quattro culture che non hanno scrittura. E però parlano lo stesso, sono capaci di parlare, uguali. Il linguaggio esiste anche se non c'è la sua rappresentazione scritta, che può essere di tanti qui, poi non soltanto politica. Allora, i suoni. Il linguaggio è un insieme di suoni complessi formati da suoni più semplici, giusto? E questi suoni più semplici sono pochi o sono tanti? Tanti, sono semplici, sono tanti. Ma sono pochi. Possono essere combinati quasi in maniera infinita. Allora, i suoni semplici sono pochissimi. Sono pochissimi, non sono più di 40 nelle lingue che hanno noi che cosa abbiamo? Abbiamo 20 sì, conta che alcune, perché noi abbiamo 7 locali, non 5, come lo pensiamo, abbiamo 2 O, che foneticamente sono diverse, F-E-O-O, però le scriviamo con la stessa lettera, ma i suoni quindi hanno 7 locali. Abbiamo un po' più delle consonanti che scriviamo, perché abbiamo un suono C, un suono C, un suono che magari abbiamo sempre con la lettera C. Insomma, diciamo che l'italiano dà una 30 di suoni al massimo, sì, no, l'inglese ne ha un po' di più, ma non sono più di 40, altre lingue ne hanno, siamo intorno ai 40, al massimo 45, diciamo, con un numero, diciamo, compreso dai 30 e i 40 suoni, io posso costruire tutte, e questi suoni sono, a coloro che parlano la lingua, è immediata il riconoscimento di questi suoni, ognuno di noi riconosce i suoni singoli, no? Sa che il suono S è diverso dal suono T, diverso dal suono B, diverso dal suono P, diverso dal suono C, e così, tutti, A, E, B, come lo vuol dirlo in italiano, O, O, questo qua è diverso, U, siamo in grado, li mettiamo insieme e formiamo. Quindi il linguaggio è un sistema di segni, nel senso che mette insieme un certo numero di segni elementari piccoli, un certo numero piccolo di segni elementari, e a partire da questi costruisce dei suoni molto più articolati, molto più complessi, molto più lunghi, con i quali comunica dei contenuti, nomina degli oggetti, nomina delle azioni, nomina delle situazioni, degli stati di essere. È molto complesso il linguaggio, mica solo serve nominare oggetti, nomina un sacco di cose, azioni, relazioni, esseri umani e lui. Esiste un sistema analogo a questo nelle immagini? È la gestalt, che è la percezione delle forme. La percezione delle forme, bravo. La percezione delle forme, bisogna essere platonici per dire che questa è una forma elementare. Infatti che io non sono Giotto, non sono capace di fare le O circolari, come si dice, ma se anche avessi fatto un cerchio completo, perché questa dovrebbe essere una forma primitiva e questa no? Perché l'ellisse dovrebbe essere... E l'ovolo, che non è neanche un'ellisse, ma è la combinazione di due semi circonferenze, archi circonferenze, quadrata. Perché questa dovrebbe essere più o meno primitiva dell'altra? Queste sono già tutte astrazioni che io faccio, ma quando va un pittore che diciamo, dipinge in un quadro di Michelangelo, di Raffaello, di Van Gogh, dove stanno gli elementi analoghi dei suoni in un linguaggio? È la composizione dello... Ma non ci sono, non sono cosa. Sono idealizzati. Sono come le lettere per le... cioè, la fonetica delle lettere. Ma non sono date a priori. No. Può darsi che Van Gogh utilizzi degli elementi, se anche sono riconducibili. Si può fare solo con Mondrian, questo loro qua, o con gente di quel genere lì. Cioè, espressionismo astratto al massimo, faccio solo linee orizzontali e verticali, vabbè, con Mondrian forse ce la caviamo. Andiamo a prendere Pollock, eh? Okay. Andiamo a prendere un clipping di Pollock. Dove cazzo stanno gli elementi fondamentali della pittura pollocchiana? Cos'è? Una singola goccia di colore lasciata cadere da un metro, una striscetta lunga 1,2 cm lasciata cadere da un po' più basso? Che cazzo facciamo lì? Allora, ve la faccio vedere. L'immagine è un segno o un sistema di segni continuo. Continuo. C'è una continuità. Vittorio dà tante pennellate, ma nel momento in cui dà una pennellata, quella è una pennellata, con una pennellata ha coperto un certo tratto, un certo spazio della tela, ha costruito un certo campo di colore, non con una sola forse, ma non fa tanti segmenti, non fa, sì, e si ferma, continuo, se io devo disegnare una linea continua, metto il gesto qua e vado avanti, è vero? Faccio un'azione continua, non faccio così. E poi li unisco magari. Qui l'immagine sono i segni continuo, i cui elementi costitutivi, se ci sono, devono essere ricostruiti a posteriori e dipendono in larga misura dal sistema, cioè da una serie di convenzioni che io faccio, che possono essere diverse addirittura da uno spettatore all'altro. Nel quadro della stanza di Arles, ce l'avete in mente? Di Van Gogh? Ah sì, ok. Nel quadro della stanza di Arles, Van Gogh, alcune cose sono banali perché sono oggetti quotidiani, le mattonelle del pavimento, la sedia, il letto, la coperta del letto, altre cose, la scrivania che sta, il tavolo che sta sulla sinistra del quadro, è un tavolo, vedo che è un tavolo, e quindi gli prendo i pezzi di cui è fatto l'oggetto e li attribuisco all'oggetto rappresentato nel quadro, ma non è mica detto che da un punto di vista della semiotica di quel quadro, quel tavolo vada scomposto nello stesso modo in cui si scompone concettualmente un tavolo reale, piano, gambe. Potrebbe essere che da un punto di vista cromatico, per esempio, Van Gogh abbia creato una continuità tra il piano del tavolo e un pezzo del muro, diciamo, dietro, o uno stacco più forte tra le gambe, no? Potrebbe essere. Quindi, il sistema di segni che costituiscono una immagine, se è un sistema di segni, è un sistema di segni continuo, la cui scomponibilità è funzione dell'osservazione e di ipotesi supplementari che fa l'osservatore. Il modo che abbiamo noi di guardare e di leggere la pittura di Giotto è diversa da quella che ebbero i suoi contemporanei, è diversa da quella che ebbe la cultura rinascimentale un paio di secoli dopo Giotto, è diversa da quella moderna, e quindi il modo in cui io definisco, se posso definirlo, il sistema di segni degli affreschi della cappella di Trueni di Parla dipende da alcune ipotesi culturali mie, quindi è variabile, perché quello è un sistema continuo la cui segmentazione è un fatto ma non a più, ok? Non preesisteva, non c'era prima. Quelle cose lì, il quadro viene creato dal pittore sulla base di ipotesi, di cose sue, ma diciamo il sistema di rappresentazione di quel quadro è basato su dei processi che sono fondamentalmente continui. Continuo è lo scorrere della penna o della matita sul foglio o del pennello sulla tela. Peggio ancora, continuo è lo scorrere della luce all'interno della macchina fotografica attraverso il diaframma. Arriva tutta la luce di un botto, non è che qua adesso vado prima quello, poi l'altro, cioè sì, cambio la tua, faccio una foto, becco tutto insieme, che continua il corso di muore. È un sistema continuo. Il linguaggio è un sistema di segni discreto. Il termine discreto nella lingua italiana non significa, cioè significa solo per parlato, persona sensibile e che non sa i calci degli altri. All'origine discreto significa qualche cosa che è discreto, separato, c'è cioè una. In matematica l'insieme dei numeri naturali è un insieme discreto, perché i numeri sono 1, 2, 3, 4, le frazioni già non sono più discrete, perché sono i numeri reali, poi non ne parliamo, quelli che stanno in corrispondenza dei punti di una retta. Nella matematica c'è già, si era già per i tempi di Euclide, la differenza tra sistemi continui e sistemi discreti. Nella matematica la geometria è fatta di enti continui. Per esempio un segmento di retta, ci stanno infiniti punti sul segmento di retta, ma qualsiasi, prendete una coppia di punti per quanto vicina voi la prendiate, c'è sempre un altro punto che sta in mezzo. Quello è l'esempio più classico di continuità. La continuità è qualcosa che non è segmentata, è segmentabile, ma siete voi, è l'essere umano che introduce delle divisioni più o meno arbitrarie tra. Mentre si dice discreto un insieme di elementi fisso, separati gli uni dagli altri, abbastanza ben riconoscibili e allora la prima differenza fondamentale tra i sistemi delle immagini e quelli e i sistemi dei, diciamo, linguistici è solo che il linguaggio si basa su processi discreti che poi noi camuffiamo da continui. Certo, quando dico sedia, è certo che è continuo, sedia, non faccio S, E, D, I, A come un deficiente, no. Dico sedia, però la segmentazione è automatica nella mente di chi, diciamo, riceve e altrettanto automatica la ricostruzione. Addirittura dico, per favore prendi quella sedia, una frase la dico di filato, non è che sto lì, per favore, ma noi sappiamo che per favore prendi quella sedia, tutti lo sappiamo, è formato da parole diverse messe una accanto all'altra, per favore prendi quella sedia, e ogni parola è formata da un insieme di suoni diversi, noi siamo favoriti da questa cosa perché siamo una cultura che sa scrivere, basata sulla scrittura. E quindi ogni scrittura, ma tanto più le scritture fonetiche, cioè le scritture che rappresentano i singoli suoni, per un cinese è un po' diverso, perché sapete che i cinesi, come parte anche i giapponesi, non hanno scritture, non rappresentano, i segni grafici non sono suoni per loro. Sono direttamente concetti e quindi parole, per un segno grafico per una parola, non per un suono. I sistemi fonetici non sono gli unici sistemi di scrittura possibili, ce ne sono tanti storicamente. Gli egiziani antichi avevano un sistema più simile a quello cinese, gli oggi che non è, anzi, totalmente diverso dal nostro. Poi ci sono i sistemi fonetici, allora, nei sistemi ideografici o pittografici, i segni, anche molto complessi, rappresentano direttamente parole, idee, concetti, eccetera, quindi non c'è se i cinesi, io devo scrivere in cinese, scrittura, lingua che non conosco e tanto meno conosco la scrittura, ma grosso modo, se io devo scrivere prendi quella sedia per favore, farò un segno che indicherà il verbo prendere, un altro segno che indicherà l'oggetto sedia, e poi probabilmente farò delle modificazioni da cui si capirà che il verbo prendere deve essere inteso all'imperativo, ma forse non faccio un segno nuovo, cambio qualcosa in quel segno lì. Farò un'altra modificazione piccola da cui si capisce che questo ordine, che non è un ordine ma che l'ho chiesto per favore invece che prendi quella sedia, e qualcosa che mi dice prendi quella sedia lì che ho indicato e non una sedia qualunque, ma probabilmente i segni che servono per scrivere nella lingua cinese prendi quella sedia saranno due e non per favore prendi quella sedia, anche se hanno usato tanto le parole cinque come nella frase italiana. Però anche lì l'alfabeto non è l'unica scrittura possibile fra quelle fonetiche, L'alfabeto al quale noi siamo abituati, quindi si pensa che sia banale, ma c'è avuto un bel po' prima che era detto, e l'alfabeto è nato una volta sola nella storia di umanità, era diventato in greci, 8 o 9 secoli prima di tutto. Perché se no le altre due grandi classi di scritture fonetiche sono le scritture sillabiche, quelle che trascrivono le sillabe, per esempio ba, be, bi, bo, bu. Per noi è facile perché c'è un suono, un senza segno che è il b della consonante b e poi il segno delle varie vocali. In una scrittura consonantica io userei 5 segni totalmente diversi gli uni dagli altri. Perché ba sarebbe un segno, be sarebbe un altro, bi sarebbe un altro, si sarebbe un altro. Oppure ci sono le lingue semitiche. Le lingue semitiche come l'arabo e l'ebreo, che sono simili perché le lingue sono simili, perché sono della stessa famiglia culturale. Quelle due lingue lì, le lingue semitiche per una serie di motivi che non vi spiego, che sarebbe lunga, non scrivono le vocali, scrivono i suoni consonantici, sì, ma non scrivono le vocali. Le vocali se le deve ricostruire chi legge vede, ed è più semplice per lui che non per noi che parliamo lingue indo-europee, di origine indo-europea, perché nelle lingue semitiche le vocali hanno un ruolo particolare che indica. Basta leggere le consonanti e un parlante di una lingua semitica sa di che concetto si tratta. Mentre per noi è un po' più difficile, potrebbe anche cambiare, solo le consonanti a noi non è che... Basta una C. Basta una C a volte, per cambiare, no, ma ci sono vocali che devono stare a casa e chiesa. Sì. In casa e chiesa sono due suoni consonanti che sono le C e la S. Per il resto sono solo vocali che cambiano, chi è. Poi si scrive diverso, c'è il CH ma non conta un cazzo quello, perché il suono è uguale, casa, chiesa è uguale, se non usassero il K sarebbe tanta, no? Come fanno molti ragazzi di oggi, sono coglioni, con il K è una cosa normale, no? È come razionale, il CH è una cosa assurda, che tra l'altro quasi tutte le lingue europee il CH si legge CH, tranne che in italiano è in metà delle parole inglesi. In inglese un po' si legge c, un po' si legge c, a cazzo come gli pare a loro, perché l'inglese ha una scrittura comune. E un fenomeno tipo casa-chiesa in una lingua semitica non ci sarebbe. Le parole CS indicherebbero i suoni CS indicherebbero un concetto solo. Qualcosa di collegato con la casa, oppure con la chiesa, o con qualche altra cosa. Quindi per il parlante, per il lettore semita, è più facile ricostruire a mente, senza che ci siano scritti, i suoni vocalici, perché i suoni vocalici indicano solo se quella c'è, se quella parola è un verbo, un aggettivo, che tempo di verbo è, ma il concetto è quello. Per esempio loro hanno una serie di consonanti, indica tutte le cose connesse con l'oggetto libro e con l'azione che si fa con i libri, tra l'altro, no? Allora, e ci sono, non so, mettiamo che sia LBR, noi LBR è libro, giusto? Allora, per loro LBR sarebbe libro, leggere, ho letto, libercolo, tutte queste robe qua. Allora, se loro leggono LBR sono sicuri che o è libro o è leggere, dal contesto della frase capiscono quali vocali devono mettergli, per quale modo che quella roba lì diventi libro, oppure diventi leggere, oppure diventi ho letto, oppure diventi leggerò, no? Oppure diventi piccolo libro, grande libro, libretto, librone. Per loro è più semplice. Le lingue indo-europee invece o si fanno dei sistemi di scrittura sillabica, se li vogliono fonetici, cioè in cui mettono due sillabe. I sistemi di scrittura sillabica sono un po' complicati del nostro, perché ci vogliono un sacco di segni, le sillabe sono almeno 50-60 minimo in una lingua, no? Qualcuna è scolpita, qualche altra così, ma... e quindi lì praticamente i greci cosa hanno fatto? Hanno preso l'alfabeto fenicio, che è una lingua, hanno preso un sistema di scrittura fenicia, che è una lingua semitica, quindi senza le vocali, e hanno approfittato della congiuntura favorevole che una serie di suoni, una serie di segni del sistema di scrittura fenicio corrispondevano a suoni consonantici che in greco non ci sono. Quindi erano diversi. hanno preso quelle linee e hanno fatto le vocali, hanno avuto questa idea geniale di mettere i segni anche per le vocali, cosa a cui nessuno prima aveva pensato. Così sono le vocali, sono i segni, le vocali come concetto sono, anche un linguista arabo sa cosa sono le vocali, però nella sua scrittura non c'è un sistema per rappresentare, non lo sa pure lui, che c'è A, E, O, U, E, cosa avrà tipo il nostro, anche un po' di più, insomma. Allora, dato questo, voglio dire, chi usa un alfabeto, alfabeto si deve usare come termine solo per il nostro sistema di scrittura, poi se c'è scritto come il greco, come il latino, come il russo, non cambia il caso, perché è sempre un alfabeto, tra dei segni diversi. A, B, C, D è come alfa, beta, gamma greco o come A, B, che eccetera, russo, insomma, siamo cirillico, cioè il sistema con la scrittura cirillica. Allora, per chi ha una scrittura alfabetica è più semplice anche concettualmente la segmentazione sonora, ma anche chi ha un altro sistema di scrittura o anche chi non ha scrittura per nulla, se riflette, è in grado di riconoscere i suoni, cioè i mattoni, che con i suoni elementari, che si chiamano fonemi, i mattoni, i suoni che in una lingua hanno significato si chiamano fonemi. Attenzione, voglio segnalarvi questo fatto, poi andremo avanti la volta prossima su questo tema perché ci avviciniamo alla fine, non ho tempo da oggi di andare avanti come avrei voluto, però ci tengo di ricordare questa cosa e ci segnate questo punto perché è un punto di cui parliamo. Ognuno di noi è convinto che il sistema di fonemi che fa la madre della lingua, la lingua parlata, il fonemi fuori, non uno di noi è convinto che il sistema di suoni che sta la parte della sua lingua, cioè i suoi fonemi, siano quelli validi per tutti, generati. Quindi che ognuno di noi è convinto che l'origine del sistema di fonemi sia biologica, non uno di noi è convinto che i 25, 26, 27, 30 fonemi della lingua italiana, quella inglese diciamo un suono, quel suono, però soprattutto lì tedesco, italiano, francese, anche le lingue slave hanno più o meno tanta fine di questo concetto. Siamo convinti che sia un sistema naturale, perché non sono altri che sono altri che sono di voi ha già imparato un attimo a studiare l'altro inglese, va bene come si dice. Questi suoni che in italiano non ci sono, ma già il francese e il tedesco. Le vocali E, I, la stessa A larga tedesca E, in italiano non ci sono, si indicano potenti anticipati, la A e la E,